Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Supera. Cara Deborah, buongiorno, come stai? Come va? Buona giornata, grazie, tutto a posto, e tu? Tutto bene, mi chiedevo perché tu e Marco Lombardo avete scelto questo passaggio del film Il Sorpasso, peraltro film memorabile sotto tutti i punti di vista. E guarda, perché abbiamo così scomodato la cinematografia italiana in realtà per raccontare una storia americana, perché alla borsa americana, Mauro, continuano a succedere delle cose sorprendenti, che peraltro per fortuna che oggi è giovedì e c'è Investire Informati, così ci facciamo chiarire le idee dalla nostra ospite di questa mattina. Che cosa è successo? Che si è registrato ieri lo storico sorpasso di Tesla su Toyota. E quindi la casa guidata da Elon Musk, quelli che producono sostanzialmente le vetture elettriche, diventa la casa automobilistica con maggior valore al mondo. I titoli del colosso delle auto elettriche ieri sono saliti di circa il 3%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di, senti un po', 207 miliardi di dollari, superando i 202 rotti della casa giapponese. Allora, questo perché è un tema che ci ha sorpreso molto, perché ancora una volta, con tutto questo blocco delle attività economico-produttive, ci si sposta sempre meno, a prescindere dalla modalità con cui questa auto viene alimentata dall'investimento nell'elettrico, ma quello che ci sorprende è che in ogni caso si spostano molti pochi mezzi, e quindi ci chiediamo come mai il mercato punti tanto su questa società in un momento in cui, per la verità, il tema del trasporto è proprio l'ultimo dei nostri problemi. E quindi anche questo sarà un tema che direi sarà il caso di chiarire oggi a Investire Informati. È un altro degli incerti dei mercati, verrebbe da dire. Lo approfondiremo con Monica Defend tra qualche minuto, dopo il nostro giornale radio del risparmio. Peraltro ho letto un'altra cosa di questo storico sorpasso, appunto, di Tesla su Toyota. Tesla nel primo trimestre ha prodotto 103.000 vetture, Toyota 2.400.000. Però la borsa premia di più, e questo è il dato, alla fine premia di più Tesla, quindi evidentemente ritiene che le prospettive di Tesla siano migliori rispetto a quelle di Toyota. L'abbiamo detto, così come non l'ho capito, l'ho detta, però lo ascolterò spiegato più tardi nel corso del nostro Investire Informati. Ma tra l'altro non vorrei che gli operatori guardino in realtà alle altre imprese di Elon Musk, come quelle che lui sta conducendo nello spazio. Ti ricorderai che a fine maggio c'è stata l'operazione della Crew Dragon e delle SpaceX, no? Quindi praticamente, come dire, questa idea di portare anche eventualmente i turisti nello spazio, sarà su questo che il mercato punta, non lo so, così in questo bizzarro periodo magari ci sta anche questa idea, magari lo scopriremo anche questo tra poco. Il giornale radio da risparmio per oggi mi pare particolarmente lungo ed impegnativo, lo facciamo partire subito? Andiamo, andiamo. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Una vita in vacanza, una vecchia che parla. Corsa, corsa al bonus vacanze. Allora, non è semplicissimo, quindi se lo volete attivatevi per tempo, verificate soprattutto se la struttura turistica dalla quale siete interessati lo accetta, perché questo pare un po' il punto dolente. Cara Debora, ieri 134.000 richieste da 402 famiglie nel primo giorno del bonus vacanze. Io ricordo agli ascoltatori, potete trovare sul sito di Radio 24 www.radio24.it radio24.it, nella sezione programmi, andate su Due di Denari, la nostra puntata del 28 giugno, cioè venerdì scorso, che appunto annunciava, riepilogava tutte le caratteristiche di questo bonus vacanza. Ricordiamo che vi serve lo speed, vi serve una app apposita, vi serve un sito, quindi insomma c'è tutta una procedura da mettere in campo. Però ieri è partito bene, è attiva appunto questa applicazione apposita, si chiama Io, ed è, serve per richiedere fino al 31 dicembre prossimo il bonus vacanze. Vi serve, l'ho già detto, lo speed oppure la carta digitale elettronica, e vi serve anche l'ISEE. Esatto, interessante Mauro questo aspetto, che in realtà le famiglie che vogliono utilizzarlo si sono attivate con l'identità digitale, ed è proprio più resistente invece proprio il panorama alberghiero, perché le strutture ricettive in realtà non danno grande disponibilità ad utilizzare appunto questo bonus. Noi speriamo che si sblocchi anche questo versante. Sicuramente si sblocca l'INATE. L'aeroporto di Milano, chiuso dal 16 marzo, a quanto pare potrebbe consentire presto di tornare a virare. No, a quanto pare, in realtà si riparte parte il 14 luglio, lo ha fatto sapere ieri l'ENAC, l'ente dell'aviazione civile italiano, che ha dato parere favorevole alla riapertura in una lettera alla ministra dei trasporti Paola De Micheli, alla quale adesso spetta di firmare il decreto, aspetta appunto firmare il decreto di riapertura insieme al ministro della salute. La SEA, che ricordiamo è la società pubblica che gestisce lo scalo, in realtà avrebbe voluto tenere chiuso l'INATE almeno fino a tutto settembre, invocando ancora problemi di sicurezza, perché ci sono lavori di ristrutturazione nell'aerostazione appunto che stanno limitando gli spazi. Ma in realtà c'era qualcuno che un pochino si era un po' approfittato di questa situazione di incertezza. Alitalia aveva già messo in vendita voli da Linate in agosto per molte destinazioni, anche se l'aeroporto tuttora è chiuso, cioè questa promessa di riapertura, le problematiche appunto sollevate da SEA, e quindi non sappiamo ancora se la riapertura ci sarà o meno. Sembra tutto pronto per la riattivazione appunto dello scalo dal 14 luglio. In realtà l'operazione di Alitalia ha suscitato molte polemiche, noi speriamo che questi biglietti messi in vendita sul mese di agosto si possano utilizzare, altrimenti poi ci ritoccherà anche fare un sacco di puntate sulle restituzioni dei biglietti venduti e non utilizzati, ma speriamo che non succeda così. È un tema ricorrente in questo periodo, questo dei biglietti che non si riesce a, come dire, a utilizzare o a farsi rimborsare. Ecco, però guarda, bisogna avere pazienza. Ad esempio, se tu hai pazienza, vedi che poi le cose arrivano. Sai che finalmente abbiamo il contratto base, per la RC Auto. Era stato previsto da un decreto. Sì, da un decreto nel 2012, cara Debora. E finalmente è stato promulgato il provvedimento che attua il contratto base. A che serve? Serve ad avere sostanzialmente una piattaforma di partenza per capire che cosa ci deve essere in un contratto RC Auto, e quindi poter comparare il costo del premio che ci viene fatto pagare a parità di condizioni, quindi capire qual è la polizza base. Poi naturalmente ci sono tutte le scelte che noi consumatori, noi automobilisti possiamo fare, coperture maggiori, coperture minori, secondo il nostro gusto e anche le nostre disponibilità. Però il contratto base per RC Auto dovrà avere l'oggetto, ipotesi di esclusioni dalla copertura, la rivalsa, le ipotesi anche di dichiarazioni false e reticenti, e la necessità di comunicare all'assicurazione le condizioni di aggravamento. Insomma, un contratto che serve a definire davvero le condizioni necessarie, essenziali. Poi dopo il premio naturalmente verrà regolato anche sulla base delle ulteriori richieste. Soddisfazione per questa attesa, insomma 8 anni di attesa non sono pochi, del movimento consumatori, soddisfazione di Assoutenti. Finalmente, questo dicono le due associazioni, dovrebbe favorire la libera concorrenza e andare nella direzione dell'abbattimento dei costi dei premi. Una bella direzione, molto gradevole. Bene, allora RC Auto di base, conto corrente di base, io ti dico che quasi quasi prossimamente dobbiamo rifare una bella puntata di approfondimento su queste tematiche. Senti, ma lo sai che la vicenda di Wirecard è finita dritta dritta in Parlamento proprio nelle ultime ore, con un'interrogazione parlamentare a firma di 4 parlamentari, di cui io non conosco la formazione politica, però li cito perché in realtà hanno intrapreso questa iniziativa anche a tutela dei consumatori italiani. Sono Baldelli, Baratto, Giacometto, Porchietto, e Allora, la situazione di Wirecard, della quale abbiamo parlato proprio da pochi giorni anche a Due di Denari, questa società fintech tedesca che sta praticamente bruciando quasi tutti i suoi soldi in termini di capitalizzazione di borsa, anche se negli ultimi giorni è andata un po' meglio, ma sostanzialmente ha un'accusa pesantissima sul proprio capo, falso in bilancio, è stato anche arrestato il suo fondatore. Il gruppo praticamente è risultato avesse un ammanco di bilancio di circa 2 miliardi, non si sa bene geograficamente dislocati in questo momento, probabilmente nel sud-est asiatico, ma a parte questo è una società fintech appunto tedesca i cui servizi erogati erano molto importanti anche per alcune carte di pagamento distribuite in Italia, SisalPay e Soldo, ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa. Improvvisamente tutti i detentori di queste carte non hanno più potuto utilizzarle, è successo lo scorso weekend, adesso tutto sarebbe ritornato nella norma, ma è stata una situazione molto sgradevole. Allora, anche sollecitati dai nostri amici di Consumerismo, che sono gli amici di questa organizzazione dei consumatori con la quale abbiamo anche attivato la nostra rubrica Homo Covid sul sito di Radio 24, ecco, questa interrogazione parlamentare chiede qual è l'entità del danno economico prodotto in Italia dal possibile fallimento di Wirecard e quali iniziative il governo intenda attivare nell'ambito delle proprie competenze per garantire maggiormente la sicurezza dei pagamenti digitali e la tutela dei risparmiatori italiani. Ultima notizia, non sono un po' in imbarazzo perché se lo dico forse faccio pubblicità ad Amazon, tu ritieni che magari effettivamente è una società semi sconosciuta, no? Mi pare. Comunque questa sì, Amazon, sì. Secondo la G-com avrebbe una posizione dominante nei servizi di consegna dei pacchi. Una posizione dominante che deve essere analizzata. Il primo operatore in Italia nel mercato delle consegne e-commerce, il secondo operatore in quelle espresse, con le consegne tipo espresse, e detiene una quota che arriva al 59% dei ricavi. Quindi questo è un vantaggio competitivo che appare fondarsi, spiega l'autorità, sulla capacità di sottrarsi a regolamentazioni vigenti. Quindi insomma l'autorità dice che in vista della conclusione dell'indagine saranno svolti approfondimenti per valutare la persistenza di posizioni dominanti su questa società, appunto Amazon, che detiene questo primato, anzi secondo la G-com la posizione dominante nella consegna. Deborah? Bene. Allora, io direi di sentire un po' qual è stato il reclamo presentato oggi al nostro sportello. Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Ma scusate, ma la borsa, avete appena detto che gli ultimi 3 mesi sono stati da record rispetto agli ultimi 11 anni. Ma com'è possibile con il Covid, con l'economia bloccata in tutto il mondo? Ma sta borsa, che cavolo di roba è? È ridicolo o è tutto falso? Poteva venire a fare il conduttore del programma di stamattina l'ascoltatore, tranquillamente. Guarda, perché ancora neanche noi l'abbiamo voce, capito. Sì, ha dato voce diciamo a diverse perplessità, comprese le mie insomma. Ma infatti guarda, noi abbiamo disturbato una esperta di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari, e allora diamo il bentornato a Due di Denari a Monica Defend, Global Head of Research di Amundi. Buongiorno, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo una sigla naturalmente per segnare proprio l'apertura di questo nostro spazio del giovedì, e allora come ogni giovedì chiedo al un po' scontento secondo me dal punto di vista calcistico Peter Bescapè se può mettere lui o eventualmente l'attento Luca Cremonese in regia con lui la sigla di Investire Informati. Investire Informati. Ricordiamo magari, Mauro, anche il numero verde per intervenire in diretta 800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. Riceviamo i vostri messaggi su attraverso l'SMS oppure su WhatsApp. Scriveteci anche se avete bisogno di qualche risposta un pochino più articolata a Due di Denari @radio24.it. Ci piacerebbe capire quale scelte vi attendono sul fronte del risparmio degli investimenti prima di concedervi